Riaccompagnata la principessa di Parma, il signor di Guermantes mi disse, prendendo il mio cappotto, «Vi aiuto a rinfagottarvi», e nell'usare quell'espressione non sorrise nemmeno, giacché i modi di dire più ordinari diventavano automaticamente, grazie all'affettazione di semplicità dei Guermantes, i più aristocratici. Provai io stesso, una volta uscito da casa sua, e mentre una vettura mi conduceva verso il palazzo del signor di Charlieu, un'esaltazione che, sia pure in modo affatto diverso che per Madame de Guermantes, sfociava anch'essa nella malinconia, perché era artificiale. Possiamo, a nostra libera scelta, affidarci all'una o all'altra di due forze. Quella che emana da noi stessi, scaturendo dalle nostre impressioni profonde, e quella che ci viene dall'esterno. La prima porta naturalmente con sé una forma di gioia, la stessa che si sprigiona dalla vita dei creatori. L'altra corrente, che cerca di introdurre in noi il movimento che agita altri individui, non è accompagnata dal piacere, ma possiamo aggiungergliene uno, di rimbalzo, in un'ebbrezza così artificiosa che volge presto al tedio, alla tristezza. Di qui l'espressione cupa di tanti mondani e la frequenza in loro di stati nervosi che possono condurre sino al suicidio. Ora, nella vettura che mi stava portando dal signor di Charlieu, io ero in preda alla seconda specie d'esaltazione, ben diversa da quella derivante da un'impressione personale che avevo provata in altre vetture. Una volta a Combray, nella carrozzella del dottor Persepier, quando avevo visto i campanili di Martinville stagliarsi sul tramonto, un giorno a Balbec, nel calesse di Madame de Villeparisis, cercando di isolare la reminiscenza offertami da un viale alberato. Ma, in questa terza vettura, ciò che avevo davanti agli occhi della mente erano le conversazioni che, durante il pranzo da Madame de Guermantes, mi erano parse così noiose, per esempio i racconti del principe Franz sull'imperatore di Germania, il generale Botha e l'esercito inglese. Li avevo introdotti nello stereoscopio interiore attraverso il quale, dal momento che non siamo più noi stessi, dal momento che, mossi da un'anima mondana, vogliamo ricevere solo dagli altri la nostra vita, diamo rilievo a ciò che essi hanno fatto o detto. Come un ubriaco pieno di tenerezza verso il cameriere che l'ha servito, mi meravigliavo della mia fortuna, che io stesso, in vero, non avevo sul momento percepita, la fortuna di aver pranzato con una persona che conosceva così intimamente Guglielmo II e su di lui aver riferito aneddoti, in fede mia, straordinariamente spiritosi. E ripetendomi con l'accento tedesco del principe la storia del generale Botha, ridevo forte, da solo, come se quelle risate, simili a certi applausi che accrescono l'ammirazione personale, fossero necessarie al racconto per corroborarne la comicità. Attraverso le lenti d'ingrandimento, anche quelli che, fra i giudizi di Madame de Guermantes, mi erano parsi stupidi, per esempio che si sarebbe dovuto vedere un Franz Hals dall'alto di un tram, acquistavano una vitalità, una profondità straordinarie. E devo soggiungere che, seppur cadde ben presto, questa esaltazione non era poi così insensata. Allo stesso modo che, un bel giorno, possiamo scoprirci entusiasti di conoscere la persona per la quale nutrivamo il più profondo disprezzo, perché si dà il caso che frequenti una fanciulla di cui siamo innamorati e alla quale può presentarci, offrendoci insieme l'utile e il dilettevole, due cose di cui l'avremmo creduta definitivamente incapace, così non c'è discorso da cui, come da qualsiasi relazione, possiamo essere sicuri che un giorno o l'altro non ricaveremo qualcosa. Ciò che Madame de Guermantes m'aveva detto a proposito dei quadri che meriterebbero d'esser visti persino da un tram, pur essendo aberrante, conteneva una parte di verità destinata, in seguito, a rivelarmisi preziosa. Analogamente, i versi di Victor Hugo che mi aveva citati erano, dovevo ammetterlo, di un periodo anteriore a quello in cui egli è diventato ben più di un uomo nuovo, in cui ha fatto apparire nell'evoluzione della letteratura una specie ancora ignota dotata di organi più complessi. In quelle prime poesie, Victor Hugo pensa ancora, anziché limitarsi, come la natura, a dar da pensare. Gli esprimeva ancora i pensieri nella forma più diretta, quasi nello stesso senso in cui il duca intendeva questa parola quando, sembrandogli antiquato e ingombrante che gli invitati delle sue grandi feste a Guermantes facessero seguire alla loro firma, nell'album del castello, una riflessione filosofico-poetica, supplicava ai nuovi venuti «Il vostro nome, carissimo, ma niente pensieri!» Ora, erano questi pensieri, quasi altrettanto assenti dalla Légende du siècle quanto le arie, le melodie dalla seconda maniera di Wagner, che Madame de Guermantes amava nel primo Hugo. Non del tutto a torto, peraltro. Erano toccanti quei pensieri, e già intorno ad essi, anche se la forma non aveva ancora la profondità cui solo in seguito sarebbe pervenuta, il frangersi delle parole numerose e delle rime riccamente articolate li rendeva inassimilabili a quei versi che si trovano per esempio in Corneille e nei quali un romanticismo intermittente, contenuto e per questo tanto più emozionante, non è tuttavia penetrato sino alle sorgenti fisiche della vita, non ha modificato l'organismo inconscio e generalizzabile in cui dimora l'idea. Limitandomi, sino allora, alle ultime raccolte di Hugo, avevo dunque avuto torto. Delle prime, certo, solo una minima parte impreziosiva la conversazione di Madame de Guermantes, ma è proprio citando un verso isolato che se ne decuplica la forza d'attrazione. Quelli che, durante il pranzo, erano entrati o rientrati nella mia memoria, calamitavano a loro volta, chiamavano a sé con impeto così irresistibile i brani da cui erano abitualmente racchiusi, che le mie mani elettrizzate non poterono opporsi per più di 48 ore alla forza che le spingeva verso il volume dove erano rilegati Les Orientelles e Les Chants du Crépuscule. Maledissi il lacchè di Françoise che aveva fatto dono al suo paese natale del mio esemplare delle Filles d'Automne e senza indugio lo mandai ad acquistarne un altro. Rilessi quei volumi da cima a fondo e ritrovai la pace solo quando, di colpo, vidi versi citati da Madame de Guermantes che mi stavano aspettando nella luce di cui lei li aveva intrisi. Per tutti questi motivi, le conversazioni con la duchessa assomigliavano alle nozioni che si possono attingere dalla biblioteca di un castello, vetusta, incompleta, inadatta a formare un'intelligenza, sprovvista di quasi tutti i libri che amiamo, ma capace di offrirci, sporadicamente, qualche informazione curiosa o addirittura la citazione di una bella pagina che non conoscevamo e la cui scoperta, dopo, siamo felici di poter ricollegare nella memoria a una magnifica dimora nobiliare. Siamo allora indotti, per averci trovato la prefazione di Balzac alla Chartreuse o qualche lettera inedita di Joubert, a sopravvalutare la vita trascorsa in quel luogo, dimenticando, grazie all'euforia di una sera, la sua frivola sterilità. Da questo punto di vista, se è vero che quell'ambiente di primo acchito aveva deluso l'attesa della mia immaginazione e non poteva dunque non colpirmi innanzitutto per quanto aveva in comune con tutti gli altri ambienti piuttosto che per ciò che lo diversificava, esso mi si rivelò tuttavia a poco, come nettamente distinto. I gran signori sono i soli, o quasi, dai quali si impari quanto dai contadini. La loro conversazione è nutrita di tutto ciò che concerne la terra, le dimore quali erano abitate un tempo, le antiche usanze, tutte cose che il mondo del denaro ignora profondamente. Anche supponendo che un aristocratico, particolarmente moderato nelle sue aspirazioni, abbia finito con l'allinearsi all'epoca in cui vive, sua madre, i suoi zii, le sue prozie lo mettono pur sempre in rapporto, quando egli rievoca la propria infanzia, con una vita oggi pressoché sconosciuta. In una camera ardente, Madame de Guermantes oggi non avrebbe fatto notare, ma avrebbe immediatamente colto una quantità di trasgressioni alle consuetudini. La scandalizzava vedere a un funerale uomini e donne mischiati, mentre esiste un rito specifico che deve essere celebrato per le sole donne. Quanto al drappo, il cui uso Bloch avrebbe certo interpretato come una peculiarità delle cerimonie funebri per via dell'espressione «reggere i cordoni del drappo» che ricorre nelle cronache dei funerali, il signor di Guermantes poteva ricordare il tempo in cui, ancora bambino, li aveva visti reggere al matrimonio del signor Méliès-Nesle, mentre Saint-Lieu aveva venduto il suo prezioso albero genealogico, antichi ritratti dei Bouillon, lettere di Luigi XIII, per acquistare dei Carrier e dei mobili modern style. I Guermantes, mossi da un sentimento in cui la passione per l'arte giocava forse un ruolo secondario e che non li rendeva personalmente meno mediocri, avevano conservato i loro meravigliosi mobili di Bouillon, che costituivano un complesso ben altrimenti seducente per un artista. Analogamente, un uomo di lettere sarebbe stato stregato dalla loro conversazione, che gli avrebbe offerto, giacché l'affamato non ha bisogno d'un altro affamato, un dizionario vivente di tutte le locuzioni che ogni giorno di più scivolano nell'oblio. Cravatte alla Saint-Joseph, bambini votati al blu, eccetera, e che sopravvivono ormai solo in coloro che si fanno amabili e benevoli conservatori del passato. Il piacere che assapora fra queste persone, assai più che fra gli altri scrittori uno scrittore, è un piacere non esente da pericoli, perché si rischia di credere che le cose del passato abbiano un fascino in se stesse, di volerle trapiantare tali e quali nella propria opera, in questo caso nata morta, e carica di una noia di cui ci si consola pensando «è bello perché è vero, è proprio così che si dice». Le conversazioni aristocratiche avevano d'altronde, nel salotto di Madame de Guermantes, la fascinante caratteristica di svolgersi in un francese eccellente, il che legittimava, da parte della duchessa, veri e propri accessi di larità di fronte a parole come batico, cosmico, pitico, sovreminente, usate da Saint-Lieu, non meno che alla vista dei suoi mobili di Bing. Malgrado tutto, le storie che avevo ascoltate da Madame de Guermantes, ben diverse in ciò dalle impressioni provate davanti ai biancospini o assaggiando una Madeleine, mi rimanevano estranee. Entrate per un istante in me, che ne ero posseduto solo fisicamente, si sarebbe detto che, essendo di natura non individuale ma sociale, fossero impazienti di uscirne. Mi agitavo dentro quella vettura come una pitonessa. Mi prospettavo un nuovo pranzo dove, divenuto io stesso una sorta di principe di X o di Madame di Guermantes, poterle raccontare a mia volta. Nell'attesa, esse facevano vibrare le mie labbra, che provavano a balbettarle. Invano cercavo di ricondurre a me stesso la mia mente vertiginosamente trascinata da una forza centrifuga. Fu così, con la febbrile, impaziente speranza di non dover più sostenere da solo il loro peso, come in quella vettura dove, d'altronde, avevo ingannato il vuoto di conversazione parlando ad alta voce che suonai alla porta del signor di Charlieu. E fu in lunghi monologhi con me stesso, durante i quali mi ripetevo quello che gli avrei raccontato senza più pensare o quasi a quanto anch'egli potesse avere da dirmi, che passai tutto il tempo in quel salotto dove mi aveva introdotto un lacchè e a cui, agitato com'ero, non dedicai nemmeno un'occhiata. Avevo talmente bisogno che il signor di Charlieu ascoltasse i racconti dei quali agognavo di renderlo partecipe, da soffrire una crudele delusione al pensiero improvviso che, forse, il padrone di casa dormiva e che mi sarebbe toccato tornarmene a casa a smaltire la mia ebbrezza oratoria. Mi ero reso conto, in effetti, che già da 25 minuti mi trovavo, ed ero stato magari dimenticato, in quel salotto di cui, malgrado il protrarsi dell'attesa, avrei al massimo potuto dire che era immenso, verdastro, con qualche ritratto alle pareti. Il bisogno di parlare non solo impedisce di ascoltare, ma anche di vedere. In questo caso, l'assenza di qualsiasi descrizione dell'ambiente esterno è già una descrizione di uno stato interno.